Allora, per questa cosa abbiamo pensato di fare un brainstorming. Quindi vi lasceremo dei bigliettini con dei pennarelli in cui voi inserirete la prima cosa che vi viene in mente di fragile. Poi partiremo da questi bigliettini e cercheremo di trovare però un punto di forza di questa fragilità. Può essere un oggetto, una situazione, un'emozione, qualsiasi cosa. Paura che il mio partner non mi apprezzi, farmi vedere per quello che sono. Essere esclusa dagli amici, trovare nuovi amici. Fare coming out davanti ai familiari, essere coraggiosa di averlo detto. Il specchio permette di vedere. Relazione amorosa, amore chiave di volta. La mia migliore amica si è messa con un ex, mio ex. Non fidarsi mai di tutte le persone. Gli occhiali e riflesso. Isolamento forzato e concentrazione su se stessi.